Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Il 2012 è l'anno internazionale delle bioenergie. Oggi al quadrifoglio vogliamo parlare proprio di questo, e in particolare parliamo di energia ricavata dal legno, perché la prossima settimana, il 5 dicembre per l'esattezza, Veneto Agricoltura ha organizzato una giornata virtuale mettendo a disposizione tecnici ed esperti a chi voglia chiarimenti sulla tematica. Noi oggi abbiamo deciso di anticipare l'evento in modo che un maggior numero di persone che sono interessate all'argomento possano avere l'occasione poi di partecipare a questo evento e di informarsi. Abbiamo quindi invitato a parlarci di bioenergie il dottor Federico Correale, responsabile appunto del settore bioenergie di Veneto Agricoltura, al quale diamo il benvenuto oggi alla trasmissione. Grazie. Entriamo subito nell'argomento e le facciamo una prima domanda che ci viene spontanea. Il legno, quando si pensa alle bioenergie, sì, sicuramente bio il legno, però normalmente si parla di solare, di geotermico, di eolico. Come mai il legno torna di attualità anche come fonte di energia alternativa, che è una cosa che, cioè, il legno è stata la fonte di energia primaria per millenni e oggi diventa alternativa? Come mai? Beh, una domanda molto interessante, anzi ringrazio, perché parte da un tema che è di grande attualità, nel senso che quando si parla di bioenergie la prima preoccupazione è che queste energie, oltre a sostituire l'energia fossile, siano anche sostenibili da un punto di vista ambientale e che in qualche modo non possano essere peggiori delle fossili per ciò che riguarda la nostra salute. E la combustione del legno è, come giustamente ha detto, una delle forme più antiche di produzione di energia, in particolare di calore, e è lecito chiedersi cosa succede nel momento in cui noi bruciamo della legna, da un punto di vista dei fumi, dei contenuti, eccetera. Indubbiamente ogni combustione prevede delle emissioni, su questo come Veneto Agricoltura abbiamo lavorato abbastanza, proprio perché è riconosciuto dall'Unione Europea che nella fetta di bioenergie che bene o male gli impegni internazionali ci imporranno nei prossimi anni di implementare nel nostro pacchetto energetico complessivo nazionale, anche se la cosa non è molto nota, la parte relativa alle biomasse legnose è di gran lunga la più importante da un punto di vista proprio quantitativo e ci si attende infatti una crescita delle biomasse molto superiore a quella del fotovoltaico e dell'eolico, ad esempio. Per biomasse esattamente cosa si intende? Per biomasse si intende tutto ciò che io posso bruciare, ma in questo momento in particolare ci stiamo focalizzando sul tema del legno, quindi del legno in tutte le sue forme. Il tema dell'emissione è un tema importante ed è legato essenzialmente a due fattori. Il primo fattore è la qualità di quello che brucio, quindi la qualità e le caratteristiche del legno che andrò a bruciare, e il secondo fattore importante sono gli strumenti che portano alla combustione, quindi le stufe, i caminetti, eccetera, eccetera. Tendenzialmente noi siamo legati a un'idea di caminetto, di stufa economica, di apparati per bruciare la legna tradizionali. Questi sono apparati che hanno una resa energetica molto bassa, tra l'altro, anche quindi non molto in linea con le prescrizioni più recenti in termini di risparmio energetico, e sono usualmente fonte anche di un certo inquinamento. Ce ne accorgiamo quando in montagna, in pieno inverno, giriamo per le strade di un paese e sentiamo questo fumo di bruciato. Esatto, che per certi versi può anche essere gradevole, ma in realtà appunto ha questo tipo di problematiche, certo. non da poco. Si deve però dire che gli apparati moderni per bruciare la legna, siano essi delle caldaie o dei termocaminetti, eccetera, eccetera, sono in grado oggi di bruciare con una massima sostenibilità ambientale. Se io brucio della buona legna in una caldaia di ultima generazione, produco una combustione assolutamente in linea con ciò che la legge prescrive in termini di combustione e di emissioni massime consentite. Ecco, legna, pellets, che cosa va bruciato e poi come si recupera questo materiale? Ovviamente il materiale legna è un prodotto degli alberi e arbusti, se la vogliamo fare più larga, da che mondo è mondo gli alberi vengono utilizzati per questo tipo di produzione, oltre che per produrre mobili, eccetera, eccetera. La legna viene prodotta o a pezzi, solitamente questo è un tipo di prodotto dedicato ai piccoli impianti, oppure può essere prodotta in forma di chips, ovvero una volta abbattute le piante vengono triturate in piccoli chips della stessa dimensione, più o meno uno con l'altro, e questi possono essere utilizzati poi direttamente in combustione una volta evidentemente essiccati adeguatamente, perché il contenuto di umidità è uno dei parametri che, si diceva prima, può essere molto importante per quanto riguarda la qualità della combustione, oltre che la resa energetica. Questi chips sono interessanti per gli impianti di una certa taglia dove vi sia sufficiente spazio per una piccola piattaforma o di stoccaggio o di essiccazione. La terza forma, direi principale, con la quale si può bruciare la legna è quella del pellet, che come sappiamo è composto sostanzialmente da piccoli cilindretti standardizzati, certo, di segatura pressata, e qui evidentemente, così come negli altri casi, ma ancora più che negli altri casi, è fondamentale la catena di produzione, la qualità, se possibile la certificazione, perché esistono delle certificazioni di qualità importanti che mi garantiscono che dentro a questi pellet vi è solo legno vergine, legno di qualità e con contenuto idrico adeguato, e in questo caso siamo in presenza di un prodotto che è paragonabile a quello di un combustibile qualunque da mettere in caldaio. Certo, abbiamo parlato appunto di riscaldamento, ma le biomasse servono non solo per il riscaldamento appunto di caminetti, di case, di appartamenti, ci sono anche altri usi a livello industriale, oppure stiamo comunque sempre parlando di questo uso domestico? Ma potenzialmente io potrei produrre calore o calore ed energia elettrica contemporaneamente mediante la cogenerazione, anche per impianti di taglia consistente. Il ragionamento che cerchiamo di fare a Veneto Agricoltura è quello di proporre sempre le biomasse in una maniera equilibrata rispetto al territorio dove poi viene calato l'impianto, nel senso che c'è un problema di approvvigionamento di legna e l'utilizzo delle biomasse deve diventare un'opportunità per l'ambiente, non un elemento ulteriormente critico. Un grosso impianto è sostenibile nel momento in cui io ho un grosso bacino di provenienza del materiale. E più grande l'impianto, più in qualche modo difficoltoso è attivare tutta la filiera che ci sta intorno. Certo. Il che significa che non è impossibile che vi siano delle applicazioni su scala industriale, anzi ci sono degli esempi molto virtuosi in tal senso, ma tipicamente il legno trova la sua applicazione migliore in impianti di media taglia, certo, diciamo dai 100-200 kW fino al megawatt. Ecco, siamo arrivati al momento della pausa, ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. I'm addicted to you. Baby, I'm addicted to you. Quiero que te Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di bioenergie, in particolar modo di energia ricavata dal legno, con Federico Correale, responsabile del settore bioenergie di Veneto Agricoltura. Stavamo dicendo del legno come fonte anche di ricavo di energia per riscaldamento, per appartamenti. Però una domanda che veniva era la fonte di questo legname sono le foreste. Dove viene ricavato questo legno? Vi sono delle foreste, delle coltivazioni particolari, oppure si parla tanto di deforestazione, insomma, in questo periodo? Certo. Cosa garantisce anche questa provenienza? Anche questo è un tema importante, bisogna cercare di ribaltare un po' il pensare comune. Se è ben vero, ed è abbastanza ovvio, che per produrre legna io devo abbattere degli alberi, è pur vero anche che nel momento in cui la legna diventa una risorsa importante, vi è tutto l'interesse da parte della società di conservare i propri boschi in certo. quanto serbatoio di un prodotto assolutamente importante. Ciò premesso, la legna si può tirar fuori da qualunque tipo di formazione forestale o agroforestale, quindi sicuramente i boschi, in particolare i cedui, cioè quei boschi che sono gestiti in modo da essere tagliati periodicamente e da mantenere una ceppaia da cui poi ricacciano nuovi polloni, che è una forma tipica di coltivazione del bosco in area montana. Così come però nella nostra pianura, nelle tradizionali siepi, anche nelle siepi di nuova concezione, oppure in impianti misti che sono quegli impianti che noi in particolare a Veneto Agricoltura abbiamo in qualche modo promosso in tutti questi anni e che consentono di riportare l'albero in pianura con tutte le sue funzioni ambientali, mantenendo però una certa fonte di reddito, in quanto evidentemente il prodotto legno comunque è un prodotto che sia nel momento in cui io lo autoconsumo, quindi abbatto dei costi che avrei dovuto dedicare all'acquisto certo. di combustibili fossili, sia nel caso di vero e proprio commercio, ottengo un reddito che può essere interessante certo. per l'agricoltore. All'interno di questi impianti io posso ottenere peraltro una sfilza di importantissime funzioni ambientali, a partire dalla fitodepurazione dell'acqua, nuovi habitat per la fauna selvatica, protezione delle colture, fasce buffer a ridosso di strade, autostrade che in qualche modo separano quindi strutture impattanti dalle aree abitate, eccetera eccetera. Quindi il fatto che serva questo legno è un incentivo a piantare alberi, o lei parlava anche di siepi, anche dalla siepe si può ricavare materiale? Tradizionalmente il prodotto legno è il principale motivo per cui in agricoltura, nella nostra agricoltura tradizionale, sono state mantenute le siepi, anzi forse il declino delle siepi parzialmente è dovuto proprio al fatto che mano a mano si è usato meno il legno. Ora c'è un ritorno di siepi moderne, polifunzionali, dove si può comunque periodicamente ricavare del legno mantenendo intatta la struttura della siepe, che quindi si rigenera continuamente certo. e va ad arricchire il nostro paesaggio di pianura. Siamo quasi alla conclusione, parliamo di questa giornata del 5 dicembre che è Veneto Agricoltura, appunto questa giornata virtuale in cui ci saranno degli esperti, dei tecnici che danno informazioni in particolar modo sull'energia ricavata dal legno, ma credo anche su altre fonti di energia alternativa, diciamo. Allora, il 5 dicembre dalle 9.30 alle 17.30 che cosa si può fare e che cosa chiedere? Quel giorno noi dedichiamo un'intera giornata a disposizione del pubblico, di chi chiama, di chi può essere proprietario appunto di una siepe, piuttosto che abbia intenzione di realizzare un piccolo boschetto da legna, oppure che abbia il dubbio sulla convenienza o meno di mantenere strutture del genere. Vi saranno una serie di esperti che in quel momento tutti contemporaneamente saranno disponibili con le modalità che in questo momento sono più comode, ovvero accanto al telefono anche internet, con il sito web, con la pagina Facebook certo. di Veneto Agricoltura, eccetera eccetera, e quindi sarà possibile in qualche modo avere delle prime informazioni. Ricordo che in una giornata così chiaramente non si può entrare nel dettaglio tecnico, ma sarà possibile avere ad esempio notizie su possibili finanziamenti, le linee di finanziamento europeo, quelle regionali certo. tramite il piano di sviluppo rurale, e anche tutte le informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla scelta delle piante quindi adatte, sia per utenti finali che magari vogliono mettere una propria caldaia nuova in un caminetto in casa, sia anche per agricoltori o comunque persone. Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo allora, quindi il 5 dicembre, giornata virtuale, significa che non c'è un luogo fisico dove si deve andare, ma che si può mettersi in contatto con questi esperti telefonando allo 049 829 3847 o scrivendo una mail a sportello.bioenergie@venetoagricoltura.org. Oppure su Twitter e su Facebook, però se andate sul sito internet www.venetoagricoltura.org trovate tutte quante le informazioni e quindi potete avere un po' tutto quanto. Ringraziamo quindi Federico Correale per questa sua presenza. Ringrazio anch'io voi per l'invito e anche gli ascoltatori. Grazie. Passiamo adesso ad alcune notizie. In previsione di adottare una nuova strategia per il futuro delle foreste dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha lanciato un concorso di disegno per i bambini tra 6 e 10 anni che vivono e studiano in Europa. Il tema del concorso è «Che cosa significa la foresta per me?», in modo che il disegno rifletta il nostro modo di vivere, giocare, utilizzare o contribuire a salvare le foreste che ci circondano. Il vincitore riceverà come premio un iPad e un viaggio a Bruxelles assieme ad un genitore e ad un tutore per ritirare il premio e il diploma. Il bando, che è in lingua francese, inglese o tedesca, è reperibile sul sito della Commissione Europea cercando il concorso What is the Forest for Me? Si svolge questa settimana a Longarone la 53esima edizione di MIG, la mostra internazionale del gelato artigianale, in programma dal 2 al 5 dicembre. L'esposizione vede la presenza di 200 tra le aziende leader in fatto di macchine, attrezzature, semilavorati, materie prime, arredamenti e accessori per la gelateria artigiana. In occasione della mostra è stata organizzata la 43esima edizione del concorso Coppa d'Oro, al quale parteciperanno un centinaio di gelatieri che si confronteranno per la prima volta nella preparazione del gelato al gusto di fragola. Il verdetto sarà il 4 di dicembre. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con la rubrica Il Quadrifoglio. Vi ricordiamo che potete riascoltarci in podcast scaricando la trasmissione dal sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.